Buonasera, buona domenica e ben ritrovati sul Stolmon Rock, quarta puntata del 2025 per quanto riguarda appunto le Stolmon Rock, ma prima intervista del 2025 per le Stolmon Rock. Quindi finalmente per facilità mia ce li ho qui in presenza, quindi è una cosa che adoro tantissimo perché mi semplifica un sacco le cose. Ma prima di andare a parlare effettivamente con loro e a dirvi che ho in intervista qui davanti a me, una piccola notizia uscita qualche ora fa o ieri, se non mi ricordo male, le due date che i Madball dovevano fare qui ad agosto da noi a Milano e Roma purtroppo sono state annullate. Quindi chi aveva già preso i biglietti sono già ripartiti i rimborsi e speriamo che ritornino presto comunque qui dalle nostre parti, perché sono veramente meritevoli da andare a vedere, nonché altri anche storici. Come dicevo, tagliamo corto, che così abbiamo tanto da parlare e non stiamo qui ad annoiarci per altre cose. Come dicevo, prima intervista per quanto riguarda il 2025, una band bolognese, ed è per questo che sono qui in presenza rispetto a tanti altri, e sono qui i ragazzi di Damn City, per la precisione Alex e Simone. Niente. Ehi, Bauci, ci bella siamo, ragazza. Ci siamo. Ciao, bella. Come state? Anche se noi più o meno da una mezz'oretta abbondante che stiamo chiacchierando, però giustamente per chi ascolta non sa che... Dai, tutto a posto, è uscito il disco nuovo, stiamo vedendo i primi riscontri che sono super positivi, quindi siamo belli carichi. E ci stiamo preparando psicologicamente per sabato prossimo, che presentiamo il disco a Bologna in un posto nuovo in cui non abbiamo mai né organizzato né suonato, che è Villa Pini. Ok, questa è la prima novità, diciamo, per quanto riguarda oltre l'album. Io non mi ricordo se con te, Alex, ne avevo già parlato la volta scorsa, ma penso di no, perché era uscita più avanti come notizia, però nel caso mi risponderà comunque Simone, nel caso ci fosse passato. Ho una domanda di rito che nessuno scappa, okay. Sicuramente sapete che i NoFX si sono sciolti di recente, lo scorso anno ad ottobre, quindi sì. Bene o male, nonostante come genere non siate molto affine ai NoFX, però bene o male siamo passati tutti da quella band. Per forza. Quindi ovviamente vi chiedo semplicemente cosa sono per voi NoFX. Madonna, NoFX, allora, personalmente NoFX sono il periodo dai 15 ai 16 anni dove si andava in giro, skate, iniziava a fare i primi trick, a sbucciarti le ginocchia e quant'altro. Sì. NoFX sono quello. Tag vari, esatto. Il periodo proprio per strada, quello vero. Sì, pantaloni larghi, baggy, magliette delle band. Mai abbandonate quelle cose, oggettivamente. Mai. Pump Up the Volume... Sicuro come disco, cioè tutti quelli della nostra generazione l'hanno consumato e se sono finiti in una sala prove l'hanno pure suonato, per forza. Sì, bene o male, penso che tutti, chi bene o chi male, hanno suonato col basso, batteria, chitarra o anche provato a canticchiare una canzone di FX, per forza. Sì. Però quindi bene o male mi fa, come dicevo, una domanda che mi piace fare a tutti. Ho ricevuto anche degli sconti che mi hanno detto, guarda, io... preferisco la fazione Rancid, per quanto si possa dire fazione, per questo fantomatico split che fecero diversi anni fa NoFX Rancid, dove si intercambiavano le canzoni. Però beh, te da bassista forse ti piacciono più i Rancid di NoFX? Ti dirò, in realtà mi fanno impazzire tutte e due, cioè io sono un fan di entrambi, cioè adoro entrambi. Sì. Rancid e NoFX, sì, assolutamente. Perfetto, è questo bene o male che bisognerebbe un attimo anche, cioè ovviamente sono le preferenze e quant'altro, propsare le vecchie glorie. Bravissimo, cioè se no qua siamo sempre qui a farci la lotta su niente alla fine, per modo di dire. 333-180-94-94, se qualcuno volesse mandare un messaggio appunto tramite WhatsApp o qualche domanda o qualche saluto, lo potete tranquillamente fare. Come dicevo, non sono in diretta Instagram perché magari chi sta ascoltando solo lo streaming o effettivamente è in radio, e magari chi si accompagna anche con i fuori onda che ogni tanto succedono per Instagram. e come dicevo mi devo un po' recuperare le cose dell'anno scorso, quindi bene o male ho dato un'occhiata anche rispetto a quello che avevo fatto l'anno scorso, bene o male ai primi di marzo ero riuscito a recuperare tutto quel 2024, così dando modo anche al 2025, per chi avesse tirato fuori un album, di metterlo, di passarlo poi effettivamente in trasmissione. Ma come dicevo sono qui in intervista, quindi andiamo a parlare con i ragazzi di Damn City, che sono sempre qui, ovviamente da me non sono scappati per fortuna, per modo di dire. Non siamo alla casa del tortellino da abbuffarci. Che cosa è qua sotto, fra parentesi. Quarto album. Sponsor, salutiamo. Pop Torture. Esatto, spero non mi sommite niente, perché era un fuori onda un po' particolare, diciamo, per modo di dire. No, della band. Sì. No, non della radio. Sì, della radio. Come dicevo, quarto album Pop Torture, rispetto agli Occhi della Sfinge, l'EP precedente, come ti dicevo... Hyperviper l'EP. Come? Hyperviper. Gli Occhi della Sfinge era una canzone, era allora, sì, allora sì, l'avevo sì, confuso sì. Con quello. Grazie dell'appunto. L'ho visto un po' più cazzuto, un po' più carico, rap ok, ma ha tenuto un pelo più indietro, dicevi, sì. È una cosa che fa parte, ha sempre fatto parte di Damn City, ma rispetto a Hyperviper un pochino meno. Confermate, giusto? Bene o male ne abbiamo parlato un attimo prima, però giusto per dare un incipit anche su questo. Più indietro nel senso con voci un po' meno presenti, intendi dire? Sì, anche magari con oltre magari un rappato che sulla voce bene o male c'è sempre, ma anche a livello di basi o che altro. Sì, è un disco un pochino più suonato, perché poi si è puntato a buttare all'interno del disco anche dei brani un pochino più elettronici, che oggi non andremo ad ascoltare, ma se andrete ad ascoltare il disco potrete sentire particolari, chicche notevoli. Ok, un po' come gli Electric Callboy lì è estremizzato per sì, modo di dire sì, esatto. Lì qua c'è qualche puntina in questo caso. Esatto, diciamo così. Questo disco secondo me è un po' più cazzuto, nel senso che le strumentali sono state scelte, a parte forse Bastandard, secondo me sono state scelte anche perché su Hyperviper avevamo un B che rappava con noi, quindi eravamo due che rappavano su quel disco. E adesso diciamo Fred e lui, che sono i due compositori principali della band, siccome ci sono solo io, non so, forse anche per quello hanno fatto delle strumentali più cattive, e quindi probabilmente anche lì siamo andati ad appoggiarci sopra dei testi tagliati un po' più ad hoc, però più oscuri. E magari a parte Bastandard e in parte Pop Torture, che ho fatto delle robe un po' ironiche che fanno anche ridere, cioè un po' più sfottò dell'epoca moderna che viviamo, le altre sono tutte un po' più sul sociale, diciamo. Ok, che ce n'è purtroppo. Ce n'è sempre molto da dire comunque, esatto, no? Esatto, su quel fattore lì sì, quindi ci sta. Io ricordo, ricordando un po' la volta scorsa, che, oppure ne avevamo parlato in un'altra occasione, che da live principalmente volevi tirare fuori questa roba da mettere anche una console da DJ set. Sì. È poi partita questa cosa, oppure è rimasto solo un attimo accantonata, o effettivamente riesci a farlo prima o a metà di un live? No, è partita, nel senso che Chuck Simo ha venduto la sua vecchia console, ho iniziato un po' a nerdarci, e quando funziona, perché comunque essendo una roba ancora mezza analogica, mezza elettronica, io da batterista a livello di tecnologia non sono molto skillato, ogni tanto faccio fatica. Però sì, ce l'abbiamo, e soprattutto secondo me sui palchi grandi spacca. Perché comunque anche l'impianto ti valorizza molto quello, ma magari tipo in una situazione più piccola, magari se suoni, cazzo ne so, al Dev, al Freak Out, in Scintilla, è meglio andare in quattro e fare anche dei pezzi dove c'è meno elettronica. Invece se capita la situazione, come ci è capitato a volte... Chimica anche, per dire, per me è un locale che risponde bene a questo tipo di poi festival, anche quello che abbiamo fatto a Gaul. Sì, assolutamente, se c'è un impianto serio. Gaul dov'è? In Sud Tirolo, quasi praticamente al confine con l'Austria, infatti parlano quasi solo tedesco. Okay. E lì c'era palco proprio grande, immaginate un open air grande, okay. O medio grande. Sì, sì. e lì se è a metà scaletta, che comunque devi fare un'ora di live, ci metti un pezzo elettronico in cui io scratcho, loro si riposano un attimo, si riaccordano, anche solo un minuto e mezzo, due, ci sta. E lì l'impianto proprio ti valorizza un sacco anche quei suoni lì. Ok. Quindi ci sta. Ok, ok, mi fa piacere. Bene che sia partita. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'avete fatta. Sì, infatti, finalmente. Che era solo un discorso, valutiamo se riusciamo a farlo, però almeno è partito anche questo discorso. E grazie dell'avviso, perché mi stavo perdendo in chiacchiere, ho detto ovviamente dopo c'era la base, quindi non è che stavamo partiva chissà che cosa, però giustamente dico, guarda che siamo verso la fine pezzo, giusto appunto. Si stava un attimo disquisendo, per modo di dire, che a livello personale il mix rap metal, rap hardcore, rap core, quello che possa essere, mi piace, come potesse essere Papa Roach, Limp Bizkit o Linkin Park, ma se si passa solo a un discorso estremamente solo rap, non ho mai trovato giovamento per quanto mi riguarda. Però col fatto che voi mischiate un sacco queste due cose, apprezzo tanto. Infatti questo primo brano, Sangue, è molto interessante, molto, molto figo, bello, bello cazzuto. Io, la parola che mi trovo per descrivere una cosa che mi piace tanto, che effettivamente lo è anche, è cazzuto, oltre che essere... Se posso fare un appunto però su questo pezzo, personalmente, oddio, potrei quasi dire, a nome di tutta la band, penso che sia il pezzo preferito all'interno dell'album, ed è un pezzo che è stato poi dedicato al discorso della strage che c'è stato proprio qui a Bologna il 2 agosto in stazione. Ok. Quindi... insomma, ci teniamo tanto e in più le influenze per quello che riguarda sta roba, cioè non sono molto la parte new metal che citavi prima citavamo i NoFX e Rancid, no? In quello stesso periodo uscivano, per dirti, anche Chaos, i Colle del Fomento, i Sangue, esatto, Misto. Quindi quello che ci piace a noi, più che quello che è già stato fatto e impacchettato, a volte finito pure su MTV con risultati più o meno discutibili, perché per dirti, a me i POD piacevano un sacco, hai capito? Poi quando sono andato a capire cosa scrivevano nei testi non ero molto d'accordo, come Limp Bizkit, magari tipo mi ritrovavo un po' di più nei Rage Against the Machine o nei Downset. Sì. Però sì. Cioè, il progetto Dam City attuale viene dall'hardcore metal e quello è. E se ci vogliamo andare ad aggiungere della parte rap, ti potrei dire che le nostre influenze italiane potrebbero essere, oltre a quelle già citate, tipo i Diassi a Comando, sì, o Lance Khan, altri italiani. A me piace un sacco, anche Murubutu, per dirti, che comunque Murubutu, che comunque, cioè, i primi dischi li presentò a XM. Sì. E cioè è comunque un paroliere che in mezzo ci mette anche tanta letteratura per farti arrivare dei ragionamenti nel presente. A me quello piace. Ci sono... Poi sì, magari tipo la cosa può strizzare un po' l'occhio a quella roba, però i suoni sono talmente moderni e i testi sono talmente diversi rispetto a quel periodo che, non so, un po' ci accostano molto a quel momento storico, hai capito? Molto spesso ci dicono, ah sì, questo mi ricorda i Limp Bizkit. Esatto. Sì, ma paragoni più facile magari è quello lì al primo ascolto. Bravissimo. Quando vai a fare un'assunzione maggiore di quello che è il contenuto del testo e quant'altro, poi magari puoi fare questamente un pochino più preciso. Sì. Oppure sempre tipo si scade un po' troppo in linea. Anche, è vero. No? Dici no, tanto del cuore, cantato band del cuore, assolutamente. Del cuore. Li abbiamo visti tutti 100.000 volte, spaccavano il culo live, e penso lo possiamo dire tutti, perché tutti li abbiamo visti. Sì. 2003-2004 facevano un macello. Sì. Però sì, è proprio un'altra roba questa, secondo me. Cantato in italiano rappresenta Bologna in italiano, però piace molto all'estero, lo stiamo vedendo da dove ci arrivano i feedback, per dirti. Perché le sonorità sono nuove e, come capita a noi, che a volte magari ci ascoltavamo un pezzo, cazzo ne so, degli Slipknot, dei Colchembro, dei Mudvayne, ci piaceva, ma non è che capivamo quello che diceva il cantante. Ci gasava per la musica e per come lui ci stava sopra. Sì. La stessa cosa succede anche all'estero. Adesso per fortuna c'è Google Translator, quindi facile facile. Esatto. Non dobbiamo neanche più spiegare. No, quindi a volte sì, a volte no. Però vabbè, dici bene o male il concetto viene capito. Dicevi dei feedback dall'estero, cosa vi hanno detto? In Germania sta piacendo un botto. In America, grazie al featuring con i Fulci, che ci hanno fatto sto maxi regalo, siamo amici con loro da più di 10 anni, partendo dai Face Your Enemy, abbiamo suonato con loro il primo live a Caserta dei Fulci, e da lì si è rimasti in contatto, abbiamo portati anche qua a Bologna. E quindi quando Fred ci ha fatto sentire Male Branche, Fred è il nostro il chitarrista, il nostro mm-hmm. chitarrista ha scritto Male Branche, ce l'ha fatta sentire, ho detto ok, questo è da far sentire a Fiore, che è il cantante dei Fulci. E loro hanno, non so, sicuramente qua li segui anche te, loro sì, hanno avuto un feedback talmente incredibile all'estero che grazie a questo regalo che ci hanno fatto ci sta tirando dietro un po' tutto l'album. Sì, sì. Buono. Molto buono. Buona sapersi. Molto buono. Buona sapersi. Seconda parte di Storm Rock, sono sempre qui in collegamento con... in collegamento. L'abitudine di dire collegamento quando in realtà sono qui davanti a me in presenza con Alex e Simone dei Damn City, che stiamo parlando appunto del loro nuovo album Pop Torture. Date, oltre a quella che avevate detto a inizio puntata del release party a... ricordamelo che non mi ricordo il Villa Pini. Avete altro che avete confermato, magari, che potete dire, oppure c'è qualcosa in ballo che... Al momento di confermato non proprio, diciamo che stiamo andando su con insomma, adesso mi picchiano se lo dico, forse vai. Una rivisitazione di componenti, perché insomma, come si stava dicendo poi anche prima, andando avanti, persone hanno impegni, famiglia, lavoro e quant'altro, quindi andremo a salutare un nostro amico e prenderemo su forse una nuova persona. Quindi diciamo che prima di confermare date e quant'altro bisogna che ci sistemiamo con questo discorso qua, giustamente. Okay. Qualcosa di confermato c'è già, però abbiamo dovuto... Allora, praticamente Johnny... diciamo, okay, Johnny, ce l'ha detto verso fine estate, okay, inizio autunno, no? E quindi noi abbiamo dovuto comunque bloccare quello che potevamo fare, anche se era solo pur parler, per capire un attimo come muoverci, come succede in questi casi, no? Noi non siamo mai andati alla ricerca, ci è sempre capitato tra le mani in un momento di difficoltà che comunque un nostro amico o qualcuno ci veniva a dare una mano. E sinceramente sabato scorso sembra successa di nuovo questa cosa, quindi prima di dire qualsiasi cosa tocchiamo ferro, però esatto. Le proposte ci sono, anche prima giù con loro gli ho detto un'altra roba molto bella che ci piacerebbe fare, che finalmente ci è arrivata come proposta, però aspettiamo un attimo, piedi per terra, certo. Aspettiamo di poterle fare le robe, anche perché Johnny giustamente ci ha dato disponibilità fino a marzo. Ecco, fino a marzo le cose che abbiamo da fare le faremo con lui, avremo una roba da fare a marzo di nuovo a Bologna, abbiamo qualche proposta in giro, però dobbiamo capire se ci siamo tutti, e in questo arco di tempo vedremo se riusciamo a... Salta fuori qualcos'altro, se esatto. Riusciamo a sistemarci noi, quindi... No, vabbè, dai, ci tutto sta. Tutto ancora da definire. Ci sta, come dicevamo prima appunto nel fuori onda, prima della puntata, crescendo le difficoltà, per modo di dire, di una band sono bene o male quelle. Sì, a meno esatto. Che non abbia uno, una compagna o che altro che riesce a dire... vai pure, non ti preoccupare, ti sono vicino, quant'altro, magari c'è quella che dice no, hai rotto il cazzo con sta roba ti voglio che stuzzi a casa, brutalmente parlando, meno male, penso che le due bilanci siano queste più o meno, poi magari ci sono altri modi un po' più livellati, però penso che siano le due estremità, penso che siano più o meno queste. Sì, sì. Beh, anche il lavoro, e anche il lavoro, noi abbiamo cambiato tanti componenti e cioè comunque stanchezza. Perché poi quando parti in pompa magna a fare le robe non vuol dire che dopo fai quello e basta, cioè tu continui a lavorare full time e il weekend vai a fare ste robe prendendoti le ferie, quindi vuol dire che quando sei a fare ste robe non ti riposi, anzi, però ti diverti. Sì. però poi non hai le ferie per riposarti. No. Quindi cioè, cane che si morde la coda alla fine, non, sì, scappi, non scappi anche, dal principio. Anche con Johnny comunque quando è uscito Hyper Viper siamo riusciti a fare un giretto molto figo di 20-30 date selezionate, festival grossi, oppure posti in cui ne è sempre valsa la pena, però ovviamente poi è stato difficile per tutti riprendersi, per, cioè, se in mezzo iniziano a saltare fuori robe di lavoro, figli, bimbi piccoli che piangono di notte, te non ti riposi. Dici, la cosa più facile è sempre abbandonare bene o male un attimo la... Sai che insomma devi fare una scelta. Bravissimo. Noi capiamo, siamo vicino e supportiamo in ogni modo, come lui supporta noi, perché lui poi adesso si è messo completamente, infatti c'è una persona d'oro, lui è una persona conosciuta sulla scena, in un botto lo conoscono perché è un grande, e lui è una persona d'oro perché comunque già solo il fatto che ti dice no raga, cioè presentatemelo, gli insegno io la roba, non vi preoccupate, lui in primis era proposto per trovare eventualmente qualcuno che potesse venire al suo posto, quindi no, sotto quel punto di vista proprio buonissimi rapporti e si è comportato in modo giustissimo. Come, si poteva chiedere altro, come con tutti gli ex componenti che poi anche te quando sei venuto ai nostri concerti sono sempre lì con noi. Sì, infatti bene o male ogni volta che vi ho visto, magari a distanza di qualche anno da è capitato, dicevo, ho detto ok, Alex quello chi è e quell'altro chi è. Però bene o male l'importante è che si rimanga sempre in buoni rapporti, che non ci siano scazzi particolari, almeno dici io raga non posso più, e si va davanti comunque lo stesso, e che la roba nuova sia sempre più figa. Bravo, è cazzuta, come dicevo io prima. Perché se fai avanti, se vai avanti e poi la roba fa schifo, anche no. Esatto. Se la roba spacca, ci sta. Infatti. E sotto indicazione di Simone, che mi ricordava che c'è la coda lunga, quindi verso la fine del pezzo, rientriamo appunto in diretta. Qui le corna belle e la coda lunghe. Questa è una gag che dovremmo capire vagamente quasi tutti, perché ce lo ricordiamo in questo video. Era partito un attimo questa diatriba su chi avrebbe dovuto parlare, un po' spiegare cosa sono le malle branche, perché anch'io sinceramente me lo volevo chiedere cosa sono, no, non sapevo se era male branche, poi ho detto boh, magari salta fuori male branche, in italiano male branche, esattamente, anche perché il brunch non può andare male, cioè, male, cioè, branch, brunch è impossibile, infatti, è uno dei momenti migliori della domenica, non si sa mai, non si sa mai, detto, però è un, allora, facendo un attimo un sunto particolare, è un testo molto diretto, impegnato su quello che possa essere un attimo la politica. Esatto. Adesso cerco di farlo magari un pelo più banale rispetto a quello che effettivamente era il testo, però ne parlo io, che così non vi abilitiamo. No, dai, la facciamo facile. Le male branche, se noi ci facciamo riferimento a quello che era Dante e i gironi infernali, le male branche erano i diavoli che torturavano i politici corrotti, che uno i bei forconi li spongevano dentro l'olio bollente. Ok, quello che ogni tanto, anzi si verrebbe anche adesso, perché... Esatto. Non ogni tanto. Sì, sempre diciamo, adesso ogni tanto era un eufemismo, per modo di dire, giusto per dire non tutti, però in realtà chi c'è purtroppo, non combina nulla di particolare o di diverso. Ma tornando sempre a Damn City, ricordando questo pezzo è stato fatto in featuring con i Fulci. Immagino che qua ci sia, come dicevate prima, c'è un discorso di amicizia di amicizia da diversi anni. Ho visto che sono altri featuring in mezzo all'album. Come sono un po' nati o come avete scelto questi featuring? Allora, il pezzo in cui abbiamo, diciamo, maggiore featuring penso che sia Garisenda, che è una base che ho buttato giù un po' così al volo io, poi è piaciuta, quindi base della Madonna. Bellissima. Io ho la sindrome dell'impostore, quindi non ci credo mai a queste cose. Ma sì, allora, la voce, diciamo, principale che porta avanti le strofe si chiama Jessica, o se la cercate si chiama Sono la Yes. E in realtà ce l'ha presentata Alex, lei. È stata una gran scoperta, onestamente. A gusto mio, a me piace moltissimo il timbre vocale, quello che ha scritto, onestamente è stato un bel acquisto. Mentre invece sul ritornello c'è la Vera, che invece lei la conosciamo da una vita soprattutto, e lei è cantante fenomenale dei Random. Che purtroppo si sciolgono, notizia recente, purtroppo le Random Effect si sciolgono. Ah ok. Quindi se qualche band in ascolto cerca una voce femminile, digitate Veronica Iacaroni, provincia di Bologna. Così facile. Che spacca. Che spacca, nel caso qualcuno appunto volesse un featuring femminile. C'era una cosa che mi sono un attimo segnato, che molto spesso seguendoci meno male tra i vari social, quando tirate fuori qualche data, qualche festival, il discorso Nuketown. New Crew. È effettivamente una crew o è solo un discorso di festival che bene o male quando tirate fuori la data? Giusto per capire, io che non ho mai capito bene cos'è. Beh, dietro c'è effettivamente una sorta di, sto facendo le virgolette, collettivo. Okay. No, nel senso che comunque siamo diverse band, amici e quant'altro, ci si impegna per organizzare le serate, trovare i contatti e quant'altro, quindi oltre al discorso della serata in sé, dietro c'è un discorso di collaborazione. Poi il fatto vuole che condividiamo anche la stessa sala prove, quindi questa cosa aiuta tanto. Sì, dici, faccio le prove, dopo magari prima delle prove o dopo la prova c'è la riunione, per modo di dire, della New Crew, quindi no, è interessante, perché è giusto che magari ci si supporta anche tra band e... Sì, no, è fondamentale, se no non vai da nessuna parte. Appunto. Se no non vai da nessuna parte. Io comunque lo vedo proprio come collettivo, perché c'è tipo Nico Roccati che porta, anche se ormai non ha più una band effettiva, lui, che fa parte di Nuke, lui comunque avendo collagio, esatto, una pagina, ed essendo sì, tipo la sua pagina di deliri, possiamo chiamarla così, sì, cercatela, tra l'altro, su Instagram, bellissima, ha fatto pure la copertina di Gadap, esatto, ci ha fatto la copertina di un singolo, giusto. E lui avendo questa esposizione di collage che fa lui, bellissimi, essendo in contatto con Rusko Zin, che è comunque Storiegaz, che c'ha questa zin cartacea fighissima che ho trovato ogni tanto in giro a Bologna, porta avanti tutto il discorso dei mercatini anche durante le nostre date. Non in tutte riusciamo a poterli fare, perché serve anche uno spazio, sì, adibito per... solo per gli shop, quindi magari c'è la ragazza che viene con le toppe, i due ragazzi che vengono con quelle piante appese dentro le ampolle, o i tatuatori. Quindi sì, Nuke dipende chi ci ospita. Adesso abbiamo questo posto nuovo che andremo a scoprire sabato prossimo, che è Villa Pini. E sembrano, noi quando siamo andati a vedere il posto c'era il circo fuori, e il sabato avevano fatto un concerto dentro il tendone del circo, quindi secondo me è molto figo lì. Se ci fosse la possibilità di fare i mercatini, sarebbe una bella carta in più. Ok, bene, lo spazio c'è, quindi buono a sapersi, meno mi sono delucidato anch'io di questa di questa New Crew, effettivamente. E con questo unico brano un po' più tranquillo rispetto a tutto il resto, andiamo verso la fine effettivamente della puntata, dove andiamo ad ascoltare sicuramente l'ultimo brano che m'hanno girato i ragazzi di Damn City, che sono qui con me con il loro quarto album, la self-titled sostanzialmente, Pop Torture. A conclusione dell'intervista c'ho una domanda scaricabarile, che come è quella introduttiva dei NoFX, o anche quella conclusiva, okay, me ne sono solito a trovare l'ingresso, la chiusura e la fine della puntata, quindi è interessante come cosa, però non sembra, ma ci vuole del ragionamento dietro. Quindi la domanda scaricabarile, che me l'hanno rinominata così perché effettivamente è vero, vi vado semplicemente a chiedere: c'è qualcosa che non vi ho chiesto che vorreste dire? Bella questa domanda, bella, scaltra. Vedi, e il silenzio iniziale è sempre questo. Perché metti l'altra persona a dover pensare, quello è la cosa difficile. Un attimo, esatto, quindi... Allora, vediamo. Per me quello che dobbiamo dire è tutto su questo album. Okay. E se avete la curiosità, venite a vederci live. Questa è la cosa che ci può far più piacere di tutte e che ci aiuta realmente più di tutte. Credo. Sì. Te hai qualcosa da dire? Sì. No, anch'io sto pensando che effettivamente penso che per noi debba parlare poi l'album, oggettivamente. Sì. Grosse aggiunte non ne farei, in tutta sincerità. Non c'è ancora querelato nessuno. Per ora. Quindi... Vabbè, è una settimana che è fuori, quindi magari... Esatto, non dobbiamo ancora chiamare gli avvocati. se volete farci rischiare la querela, ascoltate il disco e mandatelo in giro. Ecco. Vediamo se la rischiamo o meno. Ma su Radio Città Fugico non credo sia una roba ascoltata da preti, guardie. No, immagino. Fasci, immagino di no. Immagino. No, esatto, immagino. Fortunatamente direi di no. Il nostro favoloso ministero. Ministero. Facciamo Radio Meloni anche adesso. No. Non nominarla. Esatto, no, vabbè, lo brucio. No, va bene. No, giusta osservazione, che effettivamente dici, preferisco che sia l'album che parli per noi, piuttosto che direi che bene o male abbiamo snocciolato, parlato un po' di tutto quello che potesse essere Dem City attualmente, o a livello strumentale, di line up, date e quant'altro che ci possa essere. Come dicevo, l'album è uscito da una settimana, che effettivamente è uscito venerdì scorso, 17 gennaio. Quindi direi che effettivamente andrò a chiudere la puntata con l'altro singolo Pop Torture, quindi attenzione. Posso? Vai, posso. Velocissimo. Allora, importante rega per sabato prossimo, dovreste comprare le prevendite su Dice, perché ci sono pochi posti disponibili e se arrivate lì e non ce ne sono più, noi non è che... facciamo la scaletta due volte, almeno io non ce la faccio, quindi se ce lo chiedono magari la facciamo. Se vi interessa venire, mi raccomando, su da tanto costa 6,50 euro, è prezzo ultra popolare, però prendetela lì, questa è l'unica cosa. Supportate New Crew, G5, Voyager e chiunque si fa le robe self made. Ok, benissimo. Grazie mille Dani, grazie mille Radio Fugico. Davvero, grazie per lo spazio. Figuratevi, è sempre un piacere. Poi col fatto che sei di Bologna è anche più facile anche da parte mia. Comunque grazie anche a voi per la disponibilità. E come dicevo, vado a chiudere effettivamente la puntata con l'altro brano dei Dem City, ma a conclusione di Let's Storm Rock, buon punk rock a tutti.